A bordo campo di Dario Ricci. Ma tu chi sei? Chi sei? Chi sei? E che sei? Non sei americano. Io sono un santi paio, sono stato bloccato dallo sfasciacarrozzo dal mostro tedesco e condotto dallo Stark. Ma lo metto a contatto con l'americano perché mi conosce il senso del solo padrone della lingua, vero? Allora, Marga! Che santi paio sul corpo è? Ma vuoi rovinare tutto? Non è mica uno scherzo! Ma chi sta scherzando? Io sono un santi paio, se voglio comunicare con gli americani nel senso che loro mi conoscono, vero? Perché io sono padrone della lingua. Un momento! Chi è? Dall'America a Roma è il viaggio di Thomas Di Benedetto, quello che potrebbe essere a breve il nuovo presidente della Roma Calcio. Eh sì, perché gli americani sono già sbarcati nel calcio europeo e fra poco ne parleremo, ma per la prima volta sono pronti a entrare in pompa magna nel calcio italiano. Ebbene, avventura che tutti i media stanno seguendo, quella di Benedetto, trattativa quanto mai complessa per rilevare il pacchetto di controllo della Roma Calcio dalla famiglia Sensi, però è anche lecito farsi qualche domanda e fortunatamente abbiamo in casa qui al Sole 24 Ore, a Radio 24, chi dal punto di vista giornalistico qualche domanda su questa avventura di Benedetto a Roma se la sta facendo. Benvenuto Gianni Dragoni a bordo campo. Buongiorno. Allora, Gianni Dragoni è giornalista del Sole 24 Ore che sta seguendo soprattutto sulla sponda romana, perché poi ci sposteremo anche a New York, negli Stati Uniti, per seguire sul campo la parabola di questo imprenditore. Sta seguendo, dicevamo, l'avventura e la trattativa, soprattutto dal punto di vista finanziario, che dovrebbe portare a breve nelle mani di Benedetto e dei suoi soci il pacchetto di maggioranza di controllo della Roma Calcio. Ecco, Gianni, ti chiedo subito, ma chi è questo Thomas Di Benedetto? Se ne è parlato molto, forse si è però investigato poco in profondità, no? Intorno a questo personaggio. Tu che cosa hai analizzato? Che idea ti sei fatto? Se ne è parlato molto, si è detto poco, anche quando è stato qui una settimana a cavallo tra la fine di marzo e i primi di aprile, è stato praticamente blindato l'accesso di Benedetto ai giornalisti, anche se ha fatto un paio di interviste televisive. Ma chi è Di Benedetto? Ma le ricerche, anche con i mezzi che ha a disposizione Google e altre cose, prima che esplodessero questa notorietà per l'interesse per la Roma, non hanno dato tracce, tranne trovare qualche riferimento al fatto che ha degli interessi nella squadra di baseball di Boston, i Red Sox, una quota comunque minoritaria, che vive a Boston, tra Boston e Miami. Ma quali siano le sue attività economiche e la consistenza patrimoniale, economica, finanziaria, nulla si sa. Quindi questo ha alimentato molti dubbi anche in me stesso sul fatto che Di Benedetto sia veramente una persona, diciamo, con i mezzi in grado di fare questa operazione, o non piuttosto invece un intermediario, forse uno schermo dietro il quale ci potrebbero essere altri soci che oggi non conosciamo. Ecco, domande legittime, ma che hanno un po' destabilizzato, no? L'entusiasmo, l'atmosfera che a Roma ha accolto questo paesà di ritorno che è pronto appunto a entrare in possesso e in controllo della Roma Calcio. Già è entrato in polemica per esempio con il presidente del CONI Petrucci sull'utilizzo dello stadio olimpico, che ritiene inadatto alle ambizioni della sua Roma, oppure già chiaramente ha promesso, immaginato un mercato coi fiori. Occhi. Ecco, nell'ambiente romano questo personaggio come è stato accolto? Nell'ambiente romano quasi tutti continuano a porsi delle domande e a chiedersi se veramente Di Benedetto possa essere l'uomo del rilancio della Roma, o più terra terra anche una persona con i mezzi finanziari, con i soldi, e disposto a metterli, a investirli nella Roma. Poi la speranza nei tifosi cresce, aumenta, e quindi mi sembra che negli ultimi giorni, anche quando è stato a Roma, si sia voluto, come dire, sperare in una soluzione positiva, però i dubbi rimangono, perché tutti capiscono che sembra un personaggio forse un po' improbabile. So che tirerò delle critiche dicendo questo, ma l'impressione che dà è questa. L'impressione anche che ha dato un po' al mercato azionario. Sappiamo bene quanto i titoli calcistici abbiano vita particolare, grande volatilità, spesso concentrati nelle mani di un numero relativo di azionisti e quindi insomma soggetti anche agli sbalzi umorali che arrivano poi dai risultati sul campo, ma quel meno 7,5% che il titolo della Roma Calcio ha subito subito dopo il rinvio della firma, che ormai sembrava prossima durante l'ultima visita di Benedetto a Roma, insomma, ha fatto accendere e squillare qualche campanello d'allarme, no? Certamente il rialzo del titolo della Roma negli ultimi mesi è stato molto speculativo sulle attese, anche se già da un po' tutti dovrebbero sapere, anche sul Sole 24 Ore, l'abbiamo scritto più di una volta, che in ogni caso il prezzo che Di Benedetto, se poi farà veramente l'offerta definitiva e confermerà, ha offerto, è ampiamente inferiore a quello che le quotazioni del titolo Roma hanno raggiunto negli ultimi mesi. Cioè il titolo ha superato un euro, è arrivato un euro 20, eccetera, ma il prezzo complessivo offerto, salvo sconti che potrebbe aver chiesto, equivale a 0,75 euro per ogni azione. Quindi la speranza che l'OPA successiva, a cui i compratori, se compreranno, saranno obbligati, sarebbe uguale a questo prezzo, 0,75, quindi chi compra le azioni a un euro non può guadagnare nulla. Poi ci sarà un aumento di capitale, quindi il prezzo delle azioni scenderà, altri soldi da sborsare, quindi è un prezzo ingiustificato. E già questo e forse la Consob, su tante voci, anche dichiarazioni di dirigenti della banca Unicredit che alimentavano ottimismo, l'imminenza della conclusione, credo avrebbe dovuto intervenire in modo più pronto, o forse intervenire, perché mi pare che non sia mai intervenuto. Ecco, ma perché c'è secondo te questo atteggiamento rispetto a questa operazione, che è un'operazione finanziaria che, lo ricordiamo, è relativa alla squadra, alla 18ª squadra del calcio europeo per fatturato, quindi insomma non si parla di spiccioli. Sembra che Di Benedetto, questo lo dico io, sia visto un po' come l'ultimo approdo possibile di una telenovela che ormai si trascina almeno da un paio d'anni e che ha portato la Roma in situazioni finanziarie ancora più difficili nei periodi precedenti. E questo può far abbassare in qualche modo la soglia d'attenzione anche dei mercati? È curioso come la procedura di vendita, quando finalmente la famiglia Sensi ha accettato l'invito di Unicredit a mettere in vendita la squadra, parlo quindi di luglio 2010, non sia partita con la migliore formula possibile per avere le offerte più alte, le offerte economiche più alte, cioè con un bel avviso pubblico sul Sole 24 Ore, sul Financial Times per il mercato estero, su qualche altro giornale, su altri media, internet, ma è stato, c'è un advisor dal nome importante Rothschild, ma questa procedura è partita col passaparola, cioè sono stati mandati degli inviti privati a dei potenziali interessati, alla fine mi pare che è arrivato ben poco. Certo, il calcio italiano, a differenza di quello inglese, non dimostra di avere un sistema regolatorio, un sistema di regole, parlo del lato anche economico, detto l'investitore, che diano motivi in un forte interesse all'investimento. Però lo scarso esito, il modesto esito di questa procedura, penso debba essere attribuito anche a come è partita, cioè con scarsa trasparenza. Mi spiego meglio, se un appartamento, anziché essere messo in vendita, o meglio, qui parliamo più di un appartamento, di un palazzo importante, in vendita con un avviso pubblico, ma è col passaparola, forse chi è lontano, cioè chi non è sulla Piazza Romana, ma chi è anche in Asia oppure negli Stati Uniti, pur venendolo a sapere attraverso intermediari, potrebbe pensare che questa procedura è forse non si vuol dare pubblicità per non attirare troppi interessi, e quindi, se è così, perché si pensa già a quella che può essere la soluzione, cioè pilotare la vendita verso una certa direzione, non verso chiunque. E anche la proposta, diciamo, di Benedetto, visti i soggetti poco conosciuti, e vedremo poi se confermeranno i loro impegni nei prossimi giorni, dà l'impressione che non siano loro i compratori finali. Poi si parla di questi soci italiani che dovrebbero entrare con nella quota che terrà Unicredit, ma solo dopo. Perché? Perché la cordata o la compagine non è completa subito? Interrogativi che speriamo Thomas Di Benedetto riesca a sciogliere in tempi rapidi. Facevi riferimento invece, Gianni, anche a quanto invece è accaduto nella Premier League inglese, dove gli americani sono sbarcati anche in club importanti e con quali risultati, in questo caso anche dal punto di vista finanziario, ti chiedo. L'ingresso degli americani nella Premiership inglese dal punto di vista finanziario non è stato positivo. L'esempio più famoso, ma non è l'unico, è quello del Manchester United, che la famiglia Glazer, anche questi americani ma di origine mi pare lituana o comunque qualche paese dell'ex Unione Sovietica, hanno comprato una squadra che era la più ricca d'Europa e con dei risultati economici straordinariamente positivi. Quindi un'eccezione nel panorama del calcio per le squadre vincenti che spendono tanto e quindi spesso hanno dei bilanci negativi. Però i Glazer hanno comprato con la tecnica poi del capitalismo finanziario che esagera, potrei dire del capitalismo un po' d'assalto, ma che vediamo anche in molte società italiane, cioè compro una società che va bene e anziché mettere dei soldi metto un debito che poi trasferisco sulla società. Così il Manchester United si è trovato super indebitato e i bilanci hanno cominciato a essere in perdita, e anche per far quadrare i conti il Manchester United negli ultimi anni ha venduto delle stelle più che comprare calciatori, infatti i risultati a livello internazionale non sono più venuti. Poi abbiamo gli americani nel Liverpool. E qui tra l'altro c'è una quota che potrebbe essere in piccola parte ricondotta sempre al gruppo di cui è socio Thomas Di Benedetto, anche se i suoi avvocati, i suoi legali italiani hanno detto che non ci sarebbe un'incompatibilità con la Roma qualora comprasse la Roma, perché non si possono avere due società ad esempio per partecipare alla Champions League per il conflitto di interessi, quindi non so bene se Di Benedetto sia o non sia socio del Liverpool. Vediamo gli americani come saranno in Italia. Allora, per il momento grazie a Gianni Dragoni che ci ha raccontato da Roma come è vista questa calata dello zio Tom, di Thomas Di Benedetto, dell'americano a Roma. Fra poco ci sposteremo invece proprio negli Stati Uniti per saperne ancora di più. Grazie, ciao, grazie a tutti. A bordo campo. America, mi senti? America, mi senti? Qui un BBC, ovvero un Santi Baglio Soprogasso e un Corporation. Allo, allo, America, mi senti? Mi senti? Sì, ma trasmetti l'americano. Trasmetti l'americano. Ok, ok. America, becca sta notizia. Fuori che nasce, how we can ask a plane in Galaguanas, America. You compression, you compression, you compression. Ragazzi, l'allarme! Arrivano, arrivano gli americani! Arrivano gli americani! Sono pezze! Sono mossi! Ancora il futuro della Roma Calcio, protagonista oggi a bordo campo. Ebbene, abbiamo sentito con Gianni Dragoni del Sole 24 Ore qual è l'atmosfera in cui l'avventura di Thomas Di Benedetto, probabile futuro prossimo proprietario e presidente della Roma, è nata e si sta sviluppando. Però adesso ci spostiamo, rimaniamo in casa sempre al Sole 24 Ore, ma ci spostiamo negli Stati Uniti, a New York. Benvenuto a bordo campo, Claudio Gatti. Grazie. Allora, Claudio Gatti, giornalista del Sole 24 Ore, ha avuto un giusto zelo professionale, chiamiamolo così, perché è emerso dal mondo sportivo e finanziario americano Thomas Di Benedetto. Claudio, ti sei chiesto, ma chi è questo Thomas Di Benedetto? Andiamo a capire chi effettivamente rappresenta e con quali forze e con quali capitali. Sembra sulla carta una missione non impossibile, però alla fine sul terreno, sul campo, è diventata una bella impresa, eh? Ma io ho cominciato come spesso comincio quando mi devo occupare di una personalità in una città in cui non vivo. Io sono a New York da 32 anni, Di Benedetto stava a Boston, quindi ho chiamato i colleghi del principale quotidiano di Boston, che è il Boston Globe, e la giornalista in particolare che aveva scritto l'unico pezzo che il giornale locale ha dedicato alla vicenda della cordata americana per la Roma. E questa giornalista mi ha detto: ma veramente devo confessarti che qui non lo conosceva nessuno, né nella redazione sportiva. E questo signore viene spesso presentato come il patron dei Red Sox, cioè la squadra di baseball di Boston, in realtà è solo un azionista di minoranza con una piccolissima partecipazione, e come un finanziere e banchiere di investimento, ma neppure la redazione finanza aveva mai sentito parlare di lui. Il problema è che a Roma non si riesce a chiudere da mesi questa trattativa, e a Boston, come si chiedono informazioni su questo signore, si ottengono soltanto risposte evasive. Il suo stesso ufficio non ha risposto, non ha richiamato, suo cugino è stato altrettanto misterioso, non voleva inizialmente neppure dire da quale paese o cittadina italiana venivano i loro genitori, due fratelli nati poi alla fine si è convinto a rivelare a Siano, provincia di Salerno. Ecco, questa insomma è la prima informazione certa e quella più sensibile da questo punto di vista. Almeno sappiamo che il padre di Thomas Di Benedetto è nato a Siano, in provincia di Salerno. E questo è anche tuo merito, eh? Sì, però ovviamente non è molto soddisfacente. Io l'unica altra cosa che sono riuscito ad appurare da solo è stato che risulta aver fatto una serie di donazioni al Partito Repubblicano e a candidati repubblicani, l'ultimo John McCain e il precedente George W. Bush. Ovviamente questo ai tifosi della Roma e a chi è interessato al futuro della Roma interessa molto poco. Quello che interessa sapere è lo spessore, il peso specifico finanziario di questo signore. E su questo fronte io non sono riuscito a trovare evidenza di un patrimonio che possa permettere a Di Benedetto di rischiare i soldi che mi pare siano necessari. Tant'è vero che la trattativa continua a non chiudersi sulle garanzie. Secondo me il discorso non è sulle garanzie per l'acquisto, cioè i famosi 77 milioni di cui si parla, perché divisi in 4-5 membri della cordata quei soldi non sono molti. Il problema è sui soldi successivi, cioè per l'OPA che si deve fare e la ricapitalizzazione della società per rilanciarla. E secondo me su questo punto c'è un problema, il che è anche abbastanza curioso, perché normalmente queste trattative, quando si arriva al punto di arrivare a chiuderle, i soldi sono già in un conto depositato in garanzia, quindi ci sono. Qualche chiarimento in più l'hai cercato anche da chi con Di Benedetto si è incamminato appunto in questa avventura, no? Richard D'Amore, uno dei soci della Di Benedetto AS Roma LLC, il veicolo societario che sta negoziando appunto l'acquisto della Roma con Unicredit. Come è andata la telefonata, la chiacchierata? Diciamo, sono riuscito a trovare D'Amore e mi ha risposto al telefono senza sapere chi ero. Quando gliel'ho detto, mi ha detto: ne parli con Di Benedetto. Io gli ho spiegato che Di Benedetto era a Roma e che volevo sapere da lui perché ha deciso di entrare a far parte di questa cordata, e lui mi ha risposto: no, Di Benedetto è l'unico che ne sa qualcosa. Quindi un membro della cordata stessa che dice di non sapere di quello che sta succedendo. Dopodiché, quando ho insistito, ha attaccato e quindi non siamo riusciti a parlare. Gli altri membri, sia Falcone che Wayne, non hanno risposto ai miei messaggi, e quindi c'è ancora questo alone di mistero, non si riesce a capire. L'unico membro che secondo me invece c'ha un grosso spessore riconosciuto è Jim Pallotta, il quale è effettivamente un azionista di peso della squadra di basketball di Boston, i Celtics, ma da lui non sono riuscito neppure ad avere la conferma del suo ruolo e la sua partecipazione in questa cordata. Quando l'ho chiesta alla sua assistente e al suo uomo di PR, la risposta è stata no comment. Cioè, Di Benedetto è andato al testaccio, ha parlato di campagna acquisti come se avesse già comprato la Roma. Pallotta, che invece secondo me almeno finanziariamente c'è un peso molto più significativo e anche una credibilità proprio grazie a questo suo peso, invece non vuole neppure confermare la sua partecipazione, è un po' curioso. Beh, certo è che negli Stati Uniti anche chi si occupa di investimenti nel mondo sportivo sembra far fatica a capire la logica imprenditoriale di questa iniziativa, soprattutto se effettivamente a guidarla è Di Benedetto. Ecco, dal punto di vista mediatico invece si parla della magica, intesa come Roma negli States, cioè questa trattativa anche nei suoi aspetti più folcloristici, che impatto ha avuto, Claudio? No, non se ne sta parlando, nel senso che, come ha detto il Boston Globe, che è il giornale che avrebbe più motivo di parlarne, ha scritto questo unico articolo e non ha più approfondito la cosa. Il calcio, come sappiamo, negli Stati Uniti ha un impatto mediatico limitato, al di là delle grandi squadre più note, e la Roma ha un nome chiaramente di grande peso, ma come squadra calcistica non è una squadra di calibro internazionale che suscita gli interessi di giornali o giornalisti sportivi che non seguono molto da vicino il calcio, quindi disinteresse. Tutt'altro clima, come ben sai, qui dalla sponda romana della trattativa. Staremo a vedere come andrà a finire. Chiaramente, insomma, speriamo che tutto finisca bene, soprattutto se lo augurano i tifosi della Roma. Ma insomma, noi attraverso le voci di Gianni Dragoni e di Claudio Gatti, che ringrazio, da New York, un paio o forse qualcuna in più di domande ce le siamo volute fare, se non altro per eccesso di zelo. Mettiamola così. Intanto Claudio Gatti, giornalista del Sole 24 Ore, grazie, e continuiamo a leggere le tue corrispondenze su Di Benedetto e i suoi soci da New York. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it e dialogare con noi attraverso il nostro blog, sempre sulla pagina web di A Bordo Campo. L'appuntamento è per domenica prossima, come sempre alle 14.30, e in replica il sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.